Queridos compañeros de la mente grande, no dividida, felicitándoles en estos momentos que ya viene la Navidad, el Año Nuevo, y esperemos que podemos aplicar para la vida la idea de cambiar la percepción en vez de escuchar los golpes que nos da la vida, interpretarnos a ellos solo como un sonido de los cubos de hielo en el vaso de champán. Le abbiamo provate di tutte e fino ad ora è stato un buco nell'acqua. Pertanto stavolta cambiamo registro. Svetlana, la nostra Svetlana, ma la conoscete Svetlana? Sì, sì, io so chi è. Non di persona, ovviamente, però ascolto i suoi podcast. Porca miseria. Insomma, Svetlana è, tra le tante cose, pure una monaca buddista e di pazienza probabilmente ne avrà. Insomma, Svetlana ha avuto una visione, era in meditazione, si è connessa con altri piani dell'esistenza e un testo gli è venuto alla mente. Lo ha buttato giù su carta e ecco qua il risultato. Un risultato che in italiano suona un po' diverso da come suona in spagnolo, ma tanto fa. Tanto fa in che senso? Uno, questo testo è un testo facile da leggere, questo testo è un testo difficile da capire, ma tanto fa, zucconi siamo e zucconi resteremo. C'è un'unica controindicazione: chi legge male questo testo gli prende il karma nero. Porca miseria, ragazzi, stasera siamo messi malissimo. Allora, un rischio. Tipo, via, che si fa? Era meglio Alfieri. Davvero, alla fine. Vabbè, se siamo obbligati, allora giù. Si fa in questa maniera, però occhio. È il cielo che ve lo ordina. Peggio mi sento. Andiamo, se ce lo ordina il cielo. Vai. Dividiamolo in due parti, visto che non è un dialogo vero e proprio. Come si fa? Fai tu la prima parte ed io quella dopo? Se il cielo vuole così, facciamo la prima parte e tu fai quella dopo. Speriamo bene. Qui il karma nero a me proprio, mancherebbe solo quello a me. Si va? Madonna, che pressione, comincia a sudare. Caro amico, se stai ascoltando questa voce, allora forse anche tu stai cercando di capire il mistero della vita e della morte, come me. Per il momento sono in grado solo di condividere quello che già so, ma è un inizio, e magari insieme saremo in grado di capirci qualcosa di più. In questa vita continuamente perdiamo le persone amate, le persone che ci stanno vicino. Qualcuna di loro se ne va senza neanche dirci addio e non torna mai più. Come sopportare questo dolore? Come accettare con serenità il dramma della scomparsa di una persona che un tempo era piena di vita, un'essenza umana che per un breve o lungo tratto della sua esistenza ha condiviso con noi le sue pene e le sue felicità, e poi improvvisamente è sparita per sempre? Dove sono adesso? Perché ci hanno lasciato soli? Forse anche noi, come molti di loro, vivremo spensierati senza mai pensare a questo mistero, allegri ma con gli occhi bendati per non porsi la domanda: chi sono io? Però pensaci bene, la fine prima o poi arriverà. Nel mondo delle forme, che esiste solo nella parte inferiore della nostra mente, perché le forme altro non sono che creazioni dell'ego, tutto ha un inizio e una fine. La differenza sta nel riconoscere che la nostra mente, quella vera, è molto molto più grande, e quindi per raggiungere la sua più ampia pienezza tocca vibrare più in alto. Per farlo servono più amore e più tolleranza, per cancellare quei limiti illusori che crediamo esistano tra noi e gli organismi che ci circondano. La mia vita è la tua vita, e la tua vita è la vita di tutti e di chiunque tu incontri lungo tutto l'arco della tua esistenza umana. Di più, la tua vita è la vita di ciascun essere vivente che entra o esce dalla tua esperienza, e non solo umano, ma anche mucca, gatto o cane. Perché in ultima istanza tu, come me e come gli altri, sei, siamo un'onda di energia che si infrange e si disperde tutto intorno secondo quei medesimi meccanismi che noi stessi abbiamo stabilito e su cui si fonda il mio, il tuo e il nostro mondo, ognuno il suo. Avere chiara la nostra vera natura è quel che si definisce illuminazione, che altro non è che arrivare leggeri al momento della nostra dipartita, sapendo che non è una fine ma la continuazione di un cammino, su altri piani dell'esistenza però. Solo le forme scompaiono, e il nostro corpo è una forma. Per questo muore, si dissolve. L'ego ti fa credere di essere il tuo corpo. Invece sei un essere infinito e come tale non c'è modo di costringerti a stare troppo a lungo in una forma ristretta e su un piano schiacciato. Attraverso le pareti di questo corpo, che ti avvolge come una prigione, respira l'eternità, assapora la forza del qui e ora e butta a mare passato e futuro. Perché? Perché cos'è il passato? È un'idea racchiusa in un ricordo immagazzinato nella memoria. E la memoria cos'è? Non è qualcosa di fisico né di corporeo. È come una piccola nuvola dove si concentrano tutti i nostri pensieri. Una nuvola che incombe sopra ognuno di noi. È in questa nuvola che sta scritto chi sei, come ti chiami, quanti anni hai, da quale famiglia provieni, cosa fai nella vita, che cosa hai ottenuto e cosa otterrai, senza appello. Se ignori la nuvola, l'energia limitante di queste fissazioni concentrate si affievolisce permettendoti di connetterti all'assoluto illimitato, cioè all'amore infinito, totale. Ha un amore indipendente da questo corpo e dalle sue predestinazioni storiche già definite. Un amore che aiuta a trascendere le preoccupazioni per il futuro, perché in quell'amore lì il futuro non esiste, in quanto l'ansia per quello che verrà è rivolta esclusivamente alle forme e non al contenuto. E tu, io, noi siamo unicamente il contenuto. A ciascun respiro ognuno di noi attraversa il proprio corpo, ma poi torna nell'infinito a cui tutti apparteniamo. Entriamo ed usciamo. Nasciamo e moriamo, ma solo come forme, perché essendo essenza eterna e illimitata esistiamo con la lucentezza dell'essere, da sempre e per sempre, con piena consapevolezza dell'amore senza limiti. Un amore che non è un'emozione momentanea, ma un'energia universale. Chiamalo Signore, Padre. L'assoluto è l'amore, è l'eternità e passa anche per la nostra vita. Allo stesso modo condividiamo questa eternità con tutti coloro che incrociano il nostro cammino, e tutti gli occhi che ci guardano sono i nostri stessi occhi, cioè gli occhi dell'eternità. È questo tipo di coscienza che rende felici e inaccessibili alla morte. Grazie per aver ascoltato queste parole. Un abbraccio fraterno dall'essenza come entità illimitata. Grazie, grazie, grazie. I buddisti dicono Namaste, che più o meno suona come grazie. Io però qui più che grazie, chiederei aiuto quantomeno a tutti i guru dell'India che se si mettessero tutti insieme in un posto a meditare all'unisono non riuscirebbero a salvarvi da questa brutta figura che incombe su di noi. Andiamo, ma manco il testo buddista. Vabbè, ma in realtà noi si è fatto apposta per mettere a dura prova i buddisti, la loro pazienza, la loro buddità, o come si dice. Ma insomma, ora non ci daranno mica un testo buddista allo spettacolo di beneficenza. E poi soprattutto i buddisti mi avverranno a metterci la mano addosso, loro insomma sono sopra la pace. Chi lo sa, magari noi si riesce anche a far perdere la pazienza ai buddisti. Qui l'unico dio a cui resta affidarci è Shiva il distruttore. Siete riusciti a distruggere anche questo testo.